Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: Fiat, i conti Fiat, ne parleremo più avanti. Il settore dell'acciaio, perché continua il nostro viaggio nei vari settori industriali. Domani sarà la volta del distretto delle piastrelle. Insomma, noi cerchiamo di raccontare l'Italia che con difficoltà, con cifre ancora non completamente a posto rispetto ai livelli del 2008 e quindi ancora con un calo rispetto al 2008, ma insomma l'Italia che sta cercando faticosamente di agganciare la ripresa e mette la sfida tra le priorità, e vorremmo continuare a raccontare, lo dico già a chi scrive, questa Italia e non altre Italie. Chiudiamo la parentesi, dicevo, l'acciaio oggi, il dato e i conti della Fiat, poi anche un appuntamento su Davos per vedere, oggi è intervenuta la Presidente di Confindustria Marcegaglia, ma anche Sarkozy, e nel frattempo però sono uscite proprio circa mezz'ora fa le novità sul federalismo fiscale. Ricorderete il braccio di ferro tra i comuni italiani, l'ANCI e il governo. I comuni lamentavano tutto un insieme di rischi, sostanzialmente timori sul gettito, sul trasferimento Stato-Comuni, possibilità di avere anche per tutti i comuni la tassa di soggiorno per turisti, lo sblocco delle addizionali. Ecco, sono arrivate le novità, tra cui lo sblocco dell'addizionale IRPEF, ma con dei paletti, la cedolare secca sugli affitti al 19% e per i canoni concordati al 21% per i canoni liberi, salta il bonus famiglie, ma l'affitto viene bloccato, se lo spiegheremo, e poi l'aliquota IMU, cioè l'ICI di una volta, avrà, diciamo, lì c'erano molte incertezze, i comuni vorranno capire esattamente l'ammontare di questa nuova tassa che dovrebbe appunto andare direttamente nelle casse comunali. Ebbene, leggo assieme a voi le agenzie, l'aliquota dell'IMU viene fissata attualmente al 0,76% a partire dal 2014, questo è il livello dell'aliquota, quindi 7,6 per mille, ma potrà salire con modifiche concordate tra il Tesoro e gli enti locali. Ancora la quota di gettito della cedolare secca sugli affitti che andrà ai comuni è fissata al 21,7% per quest'anno, al 21,6% dal 2012. E poi anche per le città d'arte sarà possibile arrivare alla tassa che sta facendo arrabbiare gli albergatori, la tassa di soggiorno fino a 5 euro, possibile esenzione in base alla stagione. Ne parleremo in apertura, poi ripeto, acciaio, la borsa, va bene Milano, molto bene, la migliore in Europa, guadagna un punto percentuale più di Parigi che fa lo 0,40, Francoforte più 0,40, Londra più 0,30, Milano più 1,43%. E tra l'altro su questo faccio notare che non c'è solo un andamento generalmente buono dell'indice, ma al di là di Fiat Industrial che perde il 3,7, Fiat Auto perde lo 0,3, Exor perde l'1,2, vanno molto bene i bancari, Intesa San Paolo più 4,40, Ubibanca più 3,20, Monte dei Paschi più 2,70, Popolare di Milano più 2,70 anch'essa, e ancora Azimut, Risparmio gestito più 3,81, Diasorin più 4,57, ST Microelectronics di nuovo riscoperto dopo il calo di due giorni fa più 2,41%, e ancora Fondiaria, diciamo, più 2%, Mediobanca più 1,80. Infine segnaliamo il rialzo anche di Luxottica più 1,70%, Enel più 1,60% e Parmalat più 1,22%. Più al palo Eni, ma comunque guadagna lo 0,70%, Snamrete Gas più 0,60%. L'euro è forte, è stabilmente sopra quota 1,37. Questa è l'ultima cifra per i vostri messaggi. E allora, acciaio, federalismo, borse, conti della Fiat e Davos, e anche le cooperative italiane che si riuniscono in un'unica rete. Questi i temi di questa puntata, speriamo di starci dentro. Rapidamente le notizie in breve, 349-238-6666 per gli sms. Allora, per quello che riguarda, vedo già molti messaggi sul federalismo, un po' di pazienza e ci arriviamo. Le altre notizie di carattere economico-finanziario: l'oro è a 1.343 dollari l'oncia, in calo, il petrolio invece è stabilmente sotto i 90 dollari. Avete ragione, non si vede nessun calo alla pompa di benzina. L'euro è forte e il petrolio si paga in dollari. Il petrolio è sceso sotto i 90 dollari, 86. Attendiamo con ansia, sempre per il famoso rapporto prezzo petrolio e benzina, di vedere i cali alla pompa. È volato a nuovo record invece il cotone. Già il cotone aveva fatto un record storico da quando esiste la contrattazione negli Stati Uniti, adesso è tornato a 1,728 dollari a libra, un prezzo mai visto negli Stati Uniti, pensate un po', dalla guerra di secessione. Nordisti, sudisti, insomma, da allora non vi fu, non c'è mai stato questo prezzo. E a spingere i prezzi, tanto per cambiare, ancora una volta è la Cina con una domanda fortissima che va a assorbire soprattutto la produzione americana, dopo che alcuni paesi, mi riferisco soprattutto a India, Pakistan e Australia, con l'Australia con alluvioni, ma anche il Pakistan e l'India se la sono vista brutta, hanno ridotto la produzione, e questo ha portato al raddoppio dei prezzi e alla domanda cinese di cotone americano. Volete sapere di Saras? Allora, come va Saras in borsa? Ma soprattutto, che è successo su Saras? Saras va molto bene, più 8,3%, famiglia Moratti. Perché? Perché Gazprom, il colosso mondiale del gas russo, e in realtà è Gazprom Neft, che è la parte che si occupa di petrolio del colosso Gazprom, ha dichiarato oggi, tramite il suo capo Igor Barsukov, di considerare l'acquisto di 4-5 raffinerie in Europa, tra cui anche quelle della Saras sarebbero in lista. E il titolo schizza. Saras ha precisato che con Gazprom ci sono solo contatti per valutare collaborazione, cioè una precisazione che non precisa nulla, anzi conferma i contatti. Andiamo avanti, perché volete sapere di Wall Street, abbiamo fatto anche l'apertura del GR questa mattina, è ai massimi dal 2008, 1300 punti, lo Standard & Poor's 500, dopo che ieri già il Dow Jones era andato sopra i massimi da giugno del 2008 a 12.000 punti, aveva ceduto qualcosa nel finale. Qualche dato americano, ma rapidi: aumentano i sussidi della disoccupazione più 51.000, indice Fed a Chicago invariato, aumentano invece i compromessi per l'acquisto delle case in America più 2%, il Giappone si è visto tagliare il voto da AA a AA meno, perché Standard & Poor's prevede che il deficit resterà alto. Però il Giappone ha conosciuto un dato record nelle esportazioni, più 153% il surplus commerciale, la differenza tra quanto il Giappone ha esportato e quanto ha importato. Pensate, 60 miliardi di euro è l'avanzo commerciale del Giappone, mamma mia, sono 4-5 manovre finanziarie italiane. L'export ha fatto il 24%, più 24% per la prima volta in 3 anni, grazie, vedete che poi la Cina è anche un'opportunità, grazie all'export del Giappone verso la Cina, più 28%. Allora, veniamo all'Europa. Standard & Poor's, l'agenzia di rating che oggi ha bastato il voto al Giappone, prevede che Portogallo, Grecia e Irlanda resteranno bloccate in recessione per i prossimi 18 mesi, e già questa è una notizia che, voglio dire, ci lascia così. Tra l'altro prevede che Italia, Francia e Gran Bretagna e anche il Belgio cresceranno tra l'1,5% e il 2%, e le rapide riprese in Europa occidentale saranno in Germania e in Finlandia. E dopo Standard & Poor's, obiettivamente sono tornati a record i tassi di interesse in Belgio, a record da 2 anni a questa parte. Insomma, esorcizziamo Standard & Poor's, esorcizziamo. cavolo, siamo a due gufi in due giorni, sta diventando una voliera. Andiamo avanti, per quello che riguarda Davos, al di là della piccola esplosione vicino all'hotel di lusso dove si tiene il World Economic Forum, ma nulla di grave per fortuna. Ha parlato Davos Sarkozy, ha detto che l'economia dei G20 va meglio del previsto e ha smentito, ha detto anche Sarkozy, chi si attendeva una doppia recessione, il famoso double dip, cioè una ripresa economica nel 2009 e poi di nuovo una recessione nel 2010, è stato smentito. Speriamo che Sarkozy appunto abbia ragione. E poi ha detto mai e poi mai volteremo le spalle all'euro. Delle cooperative, veniamo all'Italia, parleremo tra po' nella seconda ora. Una maxi alleanza che unisce Lega Coop, Conf Cooperative e AGC, praticamente un colosso nella distribuzione che vale 127 miliardi, non è una fusione, è un coordinamento. 43.000 imprese associate, 1.100.000 occupati, appunto 127 miliardi di fatturato. Della Fiat, che nel 2010 è tornata in utile, il risultato del gruppo infatti ha un utile netto di 600 milioni di euro, perdeva l'anno scorso 848 milioni di euro. Parliamo dopo i mercati. Adesso, dopo aver ricordato il numero per gli SMS, che è 349-238-6666, primo tema, e mi riferisco alle notizie appena arrivate sul federalismo, dovrebbero aver trovato l'accordo tra comuni e governo centrale. Allora, altri aggiornamenti. Restano le esenzioni dell'ICE per le scuole e gli alberghi della Chiesa Cattolica, proprietà della Chiesa Cattolica. Attenzione, non solo le chiese, non solo gli immobili sede di culto, ma anche ospedali e cliniche legate alla Chiesa Cattolica, le scuole private, gli alberghi del mondo cattolico e gli oratori. Insomma, noi troviamo che questa cosa sia un po' strana. O la estendiamo a tutte le confessioni religiose, a quel punto avremmo un proliferare in Italia di sette, perché tutti per non pagare l'ICI, no? Sette. Cosa fare? Andiamo avanti, dai. Il federalismo fiscale, al di là dell'aver confermato le esenzioni per i beni della Chiesa Cattolica di qualunque genere, ripeto, prima che mi inondiate di messaggi, anche gli alberghi, anche gli ostelli, anche gli ospedali, anche gli hotel, ha trovato a mio avviso un punto di contatto con le richieste dei comuni, che non necessariamente farà piacere però agli ascoltatori, perché qua il timore che poi aumentino le tasse si avvicina a tambur battente. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, cedolare secca al 19% sugli affitti per i canoni concordati, 21% per i canoni liberi, sblocco delle addizionali IRPEF, cioè sono attualmente bloccate la parte dell'IRPEF che è di pertinenza dei comuni, addizionale, è bloccata perché sennò il timore è che i comuni ne avrebbero subito aumentate. Qui però cerchiamo di capire in che modo, infatti ti vorrei su questo. Salta il bonus famiglie, poi l'IMU, ossia l'ICI, e la tassa di soggiorno anche per le altre città d'arte. Andiamo con ordine. Sblocco delle addizionali, in che termini? Allora, arriva lo sblocco delle addizionali chiesto dai sindaci, arriva a metà e con termini un po' particolari, nel senso che potranno muovere all'insù, ma anche all'ingiù, volendo, le aliquote. I comuni sono circa 4.600 oggi, che applicano attualmente un'aliquota fino allo 0,4%, fino al 4 per mille compreso. Per quelli che stanno sopra, dal 5 per mille all'8 per mille o al 9 per mille, come nel caso di Roma, invece no, rimarrebbe tutto bloccato. Questa è la proposta del governo. La disciplina viene affidata a un successivo regolamento, ma la cosa particolare è che ci può essere una sorta di sblocco retroattivo. Oggi la civiltà fiscale impone che le aliquote IRPEF della... Cos'è lo sblocco retroattivo? Ecco, appunto. Oggi, dicevo, la civiltà fiscale ti impone che le aliquote dell'anno 2011, tu per legge me le devi dire entro febbraio e poi... Certo. Come dire, si applicano nel corso dell'anno. Siccome qui invece siamo arrivati tardi, con un po' di confusione, eccetera, eccetera, entro il 31 marzo possono essere, secondo le versioni del testo che circolano fino adesso, poi vediamo insomma qual è la versione. Nelle versioni che abbiamo letto, le ultimissime di oggi, ti possono sbloccare entro il 31 marzo l'aliquota relativa al 2010. Entro il 31 marzo del 2011 ti possono bussare alla porta e dire: sai, cioè, che fammi, l'aliquota dell'anno scorso è un po' più alta. Fammi capire, ecco, proprio questo volevo capire. Cioè, tu mi stai dicendo che contro ogni... Tu giustamente citi il termine civiltà giuridica e civiltà fiscale. Ah, ma entro marzo il comune mi può dire: sai che c'è, bello mio, non me lo dice proprio così, l'aliquota IRPEF che tu pensavi bloccata al 1... Allo 0,2 è diventata lo 0,4 per l'anno scorso. Per l'anno scorso. Così c'è scritto nella bozza. Mi devi dare... Ecco, speriamo che sia un errore. Dubito, nel senso che poi c'è anche una seconda retroattività, ecco, non ci facciamo a regime, diciamo così, per l'anno 2011 e ipotizziamo anche per i successivi, poi leggeremo bene i testi finali. L'aliquota può essere sbloccata in qualsiasi momento nel corso dell'anno e ha effetto per tutti, cioè dice entro il 31 dicembre tu comune puoi sbloccare l'aliquota dell'IRPEF e vale per l'anno di cui quel 31 dicembre fa parte, cioè al 31 dicembre 2011 ti possono alzare l'aliquota di tutto il 2011 dal gennaio precedente. È una cosa un po' particolare, un po' contro lo statuto del contribuente e contro anche svariate altre leggi. Secondo me questa cosa non passerà perché, voglio dire, quando tocchi i portafogli, poi in questo periodo non mi sembra che sia un periodo di grande consenso, insomma, starei attento. Comunque vedremo, perché è chiaro che se tu entro il 31 marzo mi dici che per il 2010 devo pagarti non lo 0,2 ma lo 0,4, qualcosa gira e non sono solo i conti. In modo offende, diciamo. In modo offende, perché me lo devi dire subito, non posso, cioè, ma quale impresa potrebbe, anche un'impresa familiare potrebbe lavorare non sapendo fino a marzo del 2011 quante tasse ti devo, anzi avendo saputo quante tasse dovevo darti incluse le addizionali e poi vedendosi cambiare il prelievo, mi sembra follia. Comunque non voglio esprimere commenti, già ne hanno fatti troppi, andiamo avanti. Bonus famiglie, sì. È saltato. Nel senso che c'era questo micro, in realtà, bonus 400 milioni di euro per tutta Italia che sarebbero stati destinati alle famiglie numerose secondo criteri e modalità da trovare più avanti. Per ora, come dire, si è preferito creare i saldi a regime senza un bonus una tantum, e questo ha permesso di stabilire il livello delle compartecipazioni varie che andranno ai comuni andando via via a sostituire i trasferimenti. Si è abbassata un po' soprattutto la cedolare secca, cioè, perché ecco, non è più dal 23 e qui arriviamo, allora, è al 20 ma al 21 e al 19. Una nota la devo dare, però attenzione, nessuno ha mai sostenuto che gli oratori delle chiese, della chiesa cattolica, gli ospedali, gli alberghi non servissero. Ci sono ospedali eccellenti anche qui, anche a Roma, di proprietà della Chiesa Cattolica. Ci siamo solo chiesti in maniera retorica perché l'esenzione non tanto dei luoghi di culto, che quello si capisce, il luogo di culto, insomma, fargli pagare l'ICI o l'IMU mi sembra così eccessivo, ma anche le altre proprietà della Chiesa Cattolica, o la estendiamo a tutti, e ripeto, allora io mi creo domani la mia confessione religiosa, dico che l'albergo in realtà è la setta dei riformati e voglio l'esenzione ICI, o se no mi sembra che sia un principio che va contro la libera concorrenza, perché l'albergo o l'ospedale che fa concorrenza a una clinica privata che invece l'ICI la paga, no, lavora nello stesso settore. Comunque, federalismo cedolare secca, ha ragione chi scrive al 349-238-6666 che è un regalo, qui dicono ai più ricchi, ma insomma agli affitti più alti, quindi insomma a chi avrebbe dovuto pagare di più, insomma. Sì o no? Sì, è un regalo. Regalo no, cioè, ma è un favore, un vantaggio. Ha effetti vantaggiosi crescenti al crescere del reddito del proprietario, mettiamola così, in maniera molto mia. Più elegante. Cioè, essendo una cedolare secca... Essendo uguale per tutti, a differenza dell'IRPEF che si paga oggi sugli affitti, tu più hai il reddito alto, sia per il tuo lavoro, cioè, sia non per è proporzionale, l'affitto, quindi più paghi. È ovvio che favorisce. Non essendo proporzionale, favorisce i redditi più alti. I più abbienti. Non per c'è cui dubbio. Un affitto di 1000 euro paga, se ho ben capito, il 19%. Sì, o 19 o 21, o diciamo, 21 gli affitti liberi di mercato pagano il 21, il canone concordato paga 2100 euro, Invece lo stesso affitto di 10.000 euro, quindi un grande prezioso appartamento, paga sempre il 21, mentre 21, prima andava in proporzione. Certo. Esatto, se tu avevi l'aliquota, l'aliquota progressiva al 41 o al 43, pagavi il 41 o 43. Ok, ok. Allora, vedo molti messaggi, ripetiamo il principio dell'addizionale IRPEF, perché poi, sì, non so, per esempio il Comune di Milano non ce l'ha. No. Io che ero iscritto prima al Comune di Venezia ne pagavo tantissime. Il Comune di Milano non ce l'ha e sappiamo che non dovrebbe sfruttare, diciamo, che questa nuova scintillante opportunità, un po' perché la Moratti deve essere votata, diciamo, sì, no, in primavera. Però questo, attenzione, che qui invece è il principio serio del federalismo fiscale, cioè il sindaco e la giunta comunale decide sulla base di un ragionamento che nel percorso virtuoso dovrebbe essere questo: mi conviene chiedere i soldi ai miei cittadini, ma in cambio gli do sistema, aree urbane, ripeto, asili, l'edilizia scolastica, tutto ciò che pertiene ai comuni, servizi, e allora la mia cittadinanza mi voterà perché vivrà, pur avendo pagato un po' di più, in una città migliore, oppure a me interessa non gravare ulteriormente sulle casse dei cittadini, quindi non metto l'addizionale, tirerò fuori o farò i soldi in un altro modo o farò dei risparmi e in questo modo verrò premiata. Questo è un principio sano, virtuoso del federalismo. Possiamo ripetere, perché continuano a scrivere al 349-238-6666, come funziona, sì, il problema della retroattività dell'addizionale IRPEF? Allora, sì, premessa: i comuni oggi possono applicare un addizionale che va da 0 a 0,8. Chi oggi paga da 0,5 a 0,8 non succede niente, era bloccato sarà. Mm. Il problema è per quelli che oggi pagano da 0 a 0,4, circa metà dei comuni, un po' di più. Questi possono, questi comuni potranno, se passerà questa versione, decidere di aumentare la addizionale IRPEF dello 0,2, ma lo potranno decidere in maniera retroattiva, secondo questa bozza. Cioè, fammi capire, se il comune mi faceva pagare l'addizionale che era lo 0,4 sulla mia dichiarazione dei redditi, può portarlo, diciamo che pagavi lo 0,2. Lo 0,2, può portare allo 0,4, che è comunque il doppio. Fino al 31 marzo lo puoi portare allo 0,4 anche, dice la bozza, in riferimento al 2010. E io vago! E io vago! Me l'avete chiamata e ve l'abbiamo fatta sentire, Totò. Sì, attenzione, non è tanto l'aver sbloccato l'addizionale, ma è la retroattività che si sta contestando. Lo dice Gianni Trovati, che è uno dei massimi esperti in questo quotidiano, che è il massimo esperto a sua volta di norme e tributi, che non è civiltà fiscale, non è civiltà giuridica fammi sapere al 31 marzo che per il 2010 devo un altro 0,2%. E poi c'è anche quella dopo, cioè che del 2011 tu puoi in qualsiasi momento dell'anno ritoccare l'addizionale valida per quell'anno. Oggi esiste una regola semplice nel fisco locale: tu puoi presentare, per esempio quest'anno, entro il 31 marzo devi chiudere il bilancio preventivo. La chiusura del bilancio preventivo chiude anche tutte le possibilità di ritoccare tasse, tariffe locali, bla bla bla bla bla. L'addizionale IRPEF, secondo questa versione, sembrerebbe, come dire, svincolata da questo tipo di vincolo temporale e libera nelle mani delle decisioni più varie. Allora, per tutto il corso speriamo dell'anno. Che sia un errore, speriamo che il governo, distratto da altre cose, si sia sbagliato, speriamo che a Calderoli sia sfuggita questa nomina alla bozza, lo dico con massimo rispetto. È una nuova bozza che viene presentata ai comuni dopo la bocciatura totale di tutti i comuni, centro-destra, centro-sinistra, piccoli, grandi, nord, sud, del progetto di federalismo fiscale. Speriamo che ci sia un errore. Andiamo avanti rapidamente. L'IMU, l'ICI, è al 7,6 per mille, ma può salire? Allora, l'IMU è al 7,6 per mille, può salire negli anni. L'IMU parte dal 2014, quindi roba più tranquilla, insomma, ci ragioneremo con calma. Potranno nel corso del tempo stabilire che l'aliquota può salire o anche scendere, con la legge di stabilità però fatta d'accordo con i comuni, passaggi in conferenza unificata, eccetera, eccetera, se verificano che il gettito effettivo, per esempio, potrebbe anche permettere di abbassarla un po' rispetto, perché i calcoli sono fatti sul gettito di oggi, ma il mercato immobiliare, dicono chi lo segue, potrebbe anche nei prossimi 2-3 anni riprendere il ciclo virtuoso che è interrotto, quindi far crescere il gettito e permettere di abbassare l'aliquota. E poi non dimentichiamoci che ci sono anche tutte le misure antisommerso, che sono molto potenti, che quindi potrebbero aumentare la base imponibile degli immobili e quindi abbassare l'aliquota. Ultima nota, che poi devo dare il metro, la pubblicità, poi la borsa, poi l'Egitto, l'acciaio, oggi non ci staremo mai dentro. Turismo. Okay. Allora, io l'altro ieri ero a Roma, ho trasmesso da Roma pagando l'albergo ieri mattina. In effetti è strano, perché oltre al conto e alle spese ti chiedono due notti, 7 euro praticamente, in contanti, non puoi aggregarli al conto, devi tirare fuori cash, tassa di soggiorno, per carità. Cosa ha deciso in questa bozza del governo? Tassa di soggiorno articolata secondo la classificazione della struttura ricettiva da 40 centesimi a 5 euro, disciplinata con successivo regolamento che sarà introdotto, sperano i comuni, molto presto, nel senso che qui i comuni vogliono iniziare ad applicarla nella prossima stagione turistica, quindi insomma marzo-aprile la gente comincia a muoversi, c'è Pasqua, il ponte, eccetera eccetera, quindi loro vogliono partire subito. Bisogna vedere come sarà articolata questa progressività. Va detto anche che comunque sarà articolata agli albergatori, questa cosa proprio non va giù, e infatti c'è lo sciopero. Sì, stavamo cercando Federalberghi, Bravo Bocca, forse lo riusciamo ad avere più avanti, non so bene dove lo infileremo, nel senso che o magari domani, suggerisce l'assistente, disperata per la scaletta di oggi. Grazie intanto a voi, a Gianni Trovati, per averci ricordate insomma le novità di questa nuova bozza, dove si dovrebbe trovare l'accordo con i comuni sul federalismo fiscale. E io vado! E io vado! E io vado! E io vado! E io vado! E io vado! Pubblicità, meteo, la borsa, l'Egitto, l'acciaio, Federcop, Federalberghi. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Abbiate pazienza, vedremo domani, mi riferisco alle novità sul federalismo fiscale, se questa retroattività, a me sembra che come scoppieranno le polemiche, così probabilmente il governo la leverà dalla bozza, mi auguro, è l'auspicio. Per quello che riguarda, io non mi sono lamentato di aver pagato 7 euro per due notti, ho semplicemente detto che è strano, perché questa tassa viene pagata a parte, in contanti, cioè non rientra nel conto dell'albergo, tutto qui. Mamma mia, va bene, la borsa. Buona la borsa oggi a Milano, più 1,40%, più di un punto percentuale rispetto alla media europea. I motivi si chiamano bancari. Intesa San Paolo quasi il 5% di rialzo, e poi invece di Assorin più 4,84%. E Steamacroelectronics, dopo che era stata bastonata il giorno che è uscita con i conti, martedì. Ieri e oggi invece in netto recupero. E Ansaldo STS, dopo il contratto firmato ieri insieme a altre società del gruppo Finmeccanica, penso a Selex e a DRS, più 3,63%. UbiBanca più 3,40%, Popolare di Milano più 2,70%. Monte dei Paschi più 2,60, Unicredit più 2,44, Bulgari più 2%, come Fondiaria, SAI, Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Allora, poi arriviamo a Fiat, perché abbiamo un collegamento anche su Fiat, Intesa San Paolo e i bancari in generale. Sì, allora, il comparto bancario oggi ha guadagnato oltre 1% in Europa, e bisogna sottolineare che ieri comunque i titoli finanziari erano andati male in borsa. Per quanto riguarda Milano e Madrid, che sono state le borse migliori oggi in Europa, sono state sostenute appunto dalla performance dei titoli bancari, che hanno chiuso in forte rialzo. E dalle sale operative hanno sottolineato che oggi sono scattate le ricoperture sulle banche, poiché la maggior parte degli investitori erano sottopesati sul settore, cioè scommettevano nel medio periodo in un ribasso, e quindi oggi sono scattate le ricoperture e il listino milanese ne ha beneficiato. Scusami Livia, ma perché sono scattate solo a Milano? No, non è che sono scattate solo a Milano, è perché sia a Madrid che a Milano le banche hanno un peso maggiore nel listino, nell'indice. E quindi ne hanno beneficiato. Ho detto una cavolata? No, non è che hai detto una cavolata, che appunto bisogna ricordare che i titoli finanziari a Milano... No, adesso seriamente, anche perché con questa puntata tra federalismo, Egitto, Fiat, Acciaio, Lega Coop, devono respirare anch'io. No, quello che succede, lo spiego a chi scrive, è che a Milano, lo diciamo molte volte, sull'indice pesano molto i titoli bancari energetici, perché noi abbiamo una borsa molto sbilanciata sui bancari, su Eni ed Enel, mentre in altre borse, Parigi, Francoforte, Londra, i settori, il paniere è più diversificato, quindi se anche va bene un settore incide di meno, ecco perché Parigi guadagna lo 0,26, Francoforte lo 0,40 e Londra lo 0,70%, nonostante anche lì siano andati bene i bancari. Va bene così, Livia? Sì, sì, perfetto. Perfetto, grazie. Andiamo avanti, Dia Sorin. Allora, di Assoren bisogna dire che in queste ultime sono state due sedute positive, sia oggi che ieri, e il titolo ha beneficiato in particolare dall'autorizzazione ricevuta dalla Food and Drug Administration, che è l'ente regolatorio americano che ha approvato la commercializzazione di un nuovo farmaco, e quindi il titolo è due giorni che in sostanza chiude in territorio positivo. Eh sì. Ancora, dai, andiamo subito a Saras perché mi stanno martellando. Dopo che il ramo che si occupa di petrolio di Gazprom, che è il colosso mondiale del gas russo, ha detto di essere interessato, si chiama Gazprom Neft, ad acquisire 4-5 raffinerie in Italia e in Europa, scusatemi, e tra questi ci sarebbe anche, e c'è interesse anche per quello del gruppo Saras, ossia Famiglia Moratti, il titolo? Il titolo ha chiuso a più 7,95%, e tra l'altro uno dei manager proprio della società russa ha dichiarato che lo shopping del gruppo potrebbe comprendere anche degli asset di Saras. Poi la società, sì, della famiglia Moratti ha precisato che con il gruppo russo esistono esclusivamente, sì, contatti preliminari e quindi non vi è per ora nessun accordo. Vabbè, non ci mancherebbe, però ha confermato che esistono i contatti e il titolo si è infiammato, vedo già gli interisti scatenati. Aspettate, prima devono arrivare all'accordo, casomai vendere una raffineria, e poi potete pensare agli acquisti della famiglia Moratti, quindi dell'Inter. Andiamo avanti, Rete Elit meno 5,30%, Tiscali meno 4,70%, Unione Alberghi Italiani meno 4,55%, sono i peggiori di oggi. Bene invece, oltre a Saras, Mondo Home Entertainment più 17,3%, Mer Tecnimont più 5,70%, De'Longhi più 5,40%, Intesa abbiamo detto. Ancora Ansaldo STS. Sì, allora Ansaldo STS ha beneficiato oggi dell'annuncio dato ieri a mercati chiusi dei dati di preconsuntivo del 2010. In particolare gli ordini sono migliorati dell'11%, che è un valore record per il gruppo, ha spiegato proprio il comunicato del Consiglio di Amministrazione. La società ha sottolineato che queste prime indicazioni sul 2010 confermano anche in questo esercizio il raggiungimento, in alcuni casi anche il superamento delle previsioni comunicate in precedenza. E poi c'è Fiat che oggi ha pubblicato i conti, torna inutile gruppo Fiat. Il titolo non reagisce benissimo, però attenzione che molto era salito in questi giorni. Fiat Industrial perde il 4,50% e chiude a 10,18 euro. Fiat Auto, come la chiamo io, che si chiama Fiat SPA, meno 1% a 7,31 euro, scusatemi, per cui siamo a 17,50 euro, non più a 18 euro. Dove c'è Fiat c'è Andrea Malan del Sole 24 ore. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Questo potrebbe essere uno slogan nuovo, dove c'è Fiat. Cioè, Spero non per la Fiat, vabbè. Allora, un primo giudizio sui conti, poi il traffico e ci torniamo. Torna inutile il gruppo, parliamo di gruppo, in questo caso 600 milioni di euro, l'anno scorso furono invece 848 milioni di perdita. Se riesci a unirmi questi conti anche con la reazione di borsa. Beh, diciamo che i conti hanno mostrato le consuete forze e debolezze del gruppo Fiat, quindi è andata benissimo in Brasile, è andata benissimo con i veicoli commerciali, è andata molto bene Iveco, è andata benissimo la Ferrari, è andata ancora male, ma questo si sapeva, Fiat Auto in Europa, un po' perché il mercato è calato e un po' perché Fiat ha perso quote di mercato. L'anno scorso era stata sostenuta dagli incentivi, in particolare sono mancati gli utili che aveva fatto sulle auto a metano e a GPL. Le prospettive per il 2011 sono di un obiettivo di recuperare quote di mercato con l'auto e, per riassumere in termini di utile netto, dai 600 milioni di quest'anno l'obiettivo è passare con la somma delle due società a circa 900. Allora, adesso c'è il traffico, poi ascoltiamo anche un passaggio della conference call, quindi la conferenza con gli analisti di Sergio Marchionne. Qualche elemento, Andrea, anche sul 2011, e invece a questo punto dividiamo i ruoli. Livia Zancanelli poi ci racconta la reazione di borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. Focus Economia. 17:47 minuti. Allora, Andrea Malan, nelle prospettive buoni conti, abbiamo detto utile, certo che con alcune debolezze, ma ho visto un Marchione molto, ho sentito un Marchione, non l'ho visto, molto ottimista sul 2011. Anzi, facciamo una cosa, sentiamo questo passaggio della conference call, che è in inglese, ve lo traduco io a braccio, se ci riesco, e poi invece l'analisi di Andrea Malan. You can see what the impact has been of the decline in market demand in 2010. Italy has been severely hit as a result. E questo è il riferimento di Sergio Marchionne all'impatto del calo delle vendite nel 2010. L'Italia è stata molto colpita per il venire meno degli ecoincentivi. In Brasile invece è andato molto bene, è successo l'esatto contrario. With the exception of Italy and I guess a continued negative view of where European demand is going to be this year, we're not encouraged by the signs that we see in terms of European economic activity. E dice anche Marchionne che ci sarà una ripresa generale nel 2011 dei mercati, tranne quello italiano e anche europea in generale, che continuerà una domanda negativa in Europa. We see numbers being anywhere between 2-5% higher in 2011. E poi un passo sul Brasile, che dovrebbe crescere del 5%. Ecco, Andrea Malan, ti ritrovi con questa traduzione in primo luogo, ma soprattutto è quello che Marchionne ha spiegato in maniera più dettagliata sul 2011? Beh, diciamo che il 2011, per sintetizzare, sarà l'anno degli investimenti. Ricordiamo che quest'anno Fiat ha investito 1 miliardo meno di quanto era a piano, e il 2011 dovrebbe vedere una decisa accelerazione per lanciare nuovi modelli e per recuperare terreno anche quindi sul mercato. L'obiettivo è di recuperare qualche quota, come abbiamo detto, ma per il peso degli investimenti e perché il mercato andrà ancora così, Fiat dovrebbe bruciare 1 miliardo di cassa, la Fiat appunto che tu chiami Fiat Auto, giustamente. Dovrebbe bruciare cassa quest'anno, però Marchionne ha predisposto un grosso cuscino di liquidità. Fiat S.p.A. ha all'inizio di quest'anno oltre 13 miliardi di euro di liquidità che servono a coprire questo 2011 difficile e anche, ricordiamolo, questo sarà l'evento fondamentale di quest'anno, a finanziare l'acquisto del 16% di Chrysler in modo da arrivare entro la fine 50. Di quest'anno al 51%. Sì. E questo potrebbe costare, a seconda delle stime degli analisti, diciamo tra 1,5 e 3 miliardi di euro a seconda delle valutazioni. Ma Marchionne ha ribadito, i fondi sono già in cassa. E l'indebitamento, come tu ricordavi, è comunque si è ridotto significativamente. L'indebitamento netto industriale a 2 miliardi e 400 milioni di euro. Pensate che erano 4 miliardi e 4 a fine del 2009. Livia Zancanella, reazione del titolo Fiat in borsa. Allora, Fiat Industrial ha perso 4,5%, ma bisogna ricordare che ieri aveva guadagnato oltre il 10, quindi si può parlare anche di realizzi. Fiat S.p.A. invece ha perso oltre l'1%, secondo gli operatori, quindi i conti sono stati positivi, ma erano già scontati nel valore dei titoli. Sì. e quindi il mercato ha venduto. Allora, intanto ringrazio Andrea Malani in collegamento con noi. Livia, vorrei ancora qualche notizia su Piaggio, se ce la facciamo. Intanto iniziamo con Piaggio e poi vediamo. Sì, allora Piaggio ha perso oggi intorno all'1% e sono arrivate alcune dichiarazioni dal presidente Colaninno, sì, a Monte Carlo. Colaninno ha detto che i dati del 2010 sono soddisfacenti, anzi più che soddisfacenti. Ha segnalato anche che nel 2011 la società conta di vendere 250.000 veicoli in India dopo le vendite positive del 2010. Ultimo titolo, Alberghi Italiani, che in effetti è la debuttante del 2011, ha fatto più 28% il 19 gennaio, da allora è sempre scesa, anche oggi meno 4, Unione Alberghi Italiani meno 4,55%. Sì, infatti il 19 gennaio il titolo ha guadagnato il 28% e poi le azioni hanno però iniziato a scendere e con la chiusura con la performance di oggi hanno perso circa oltre il 22%, quindi diciamo che c'è stato un esordio boom e poi un trend discendente fino ad oggi. Grazie Livia Zancaner, agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore. Noi ci stiamo ancora dentro, incredibile, e allora manteniamo la scaletta e dalla borsa passiamo a un'altra borsa che oggi è stata anche chiusa, visti i disordini al Cairo, mi riferisco alla borsa egiziana, poi ha riaperto. In realtà la situazione in Egitto è tutt'altro che chiarita. Voi direte perché ci occupiamo di Egitto anche in questo programma, oltre che nel GR? Perché sapete che è il primo partner commerciale dell'Egitto, che è la prima economia, diciamo, dell'area sud del Mediterraneo? L'Italia. 500 imprese italiane, 200 operanti in attività industriali. L'interscambio commerciale tra Egitto e Italia, quindi export e import, è raddoppiato negli ultimi 3 anni come valore, supera i 5 miliardi di euro. Noi esportiamo macchinari, beni strumentali, prodotti chimici di base, prodotti siderurgici e autoveicoli. La borsa del Cairo, dicevo, dopo essere stata chiusa, ha registrato la seconda perdita più grossa della sua storia, il 10,5%, la perdita più ingente nella seconda perdita più ingente nella sua storia, chiusa appunto per arginare il crollo. Allora, Alberto Negri ci sta raccontando in questi giorni il dramma della situazione egiziana, quindi morti, arresti, scontri, manifestanti. Ci sono, Alberto, buonasera innanzitutto. Buonasera. Inviato da Sole 24 Ore del Cairo. Ci sono timori anche per le imprese italiane e timori in generale per quella che è l'attività produttiva egiziana a questo punto e le commesse italiane? Ma francamente devo dire che non mi sono occupato in queste ore di questo argomento in specifico. Per il momento non ci sono problemi, da quanto si capisce, ci sono problemi di ordine pubblico e questo oggi è avvenuto soprattutto fuori dal Cairo, lontano dalla capitale, cioè a Suez, nella città di Suez, a Ismailia, addirittura fino al Sinai. Ci sono stati scontri violenti, anche morto un manifestante con un proiettile in bocca, colpito da un proiettile in bocca. Quindi, insomma, siamo di fronte a una situazione che, tra l'altro, di grande tensione, perché domani qui al Cairo ci sarà una grande manifestazione annunciata intorno alle moschee. Insomma, è una situazione che forse non è quella tunisina, nel senso che forse non ci sarà la spallata al regime di Mubarak come c'è stato al regime di Ben Ali in Tunisia, ma fa capire molto bene come sia bollente la situazione sociale, politica, che deriva anche da una situazione economica non brillante. Ecco, in una domanda, quanto pesa la situazione economica vera e propria? Perché abbiamo letto anche per la Tunisia che in realtà l'assalto ai forni è stato anche un pretesto, non solo la causa completa. E se dovesse arrivare il Baradei, che insomma ha detto di essere pronto a prendere il potere se gli verrà chiesto, secondo te si tranquillizzerà anche la situazione, diciamo, economico-finanziaria? Ma io penso che le situazioni economiche e sociali siano anche moltiplicate proprio da questa mancanza di libertà che c'è in questo regime, dal fatto che c'è un presidente da 30 anni aggrappato al potere e che lo vorrebbe appunto stringere in pugno fino all'ultimo respiro, presentarsi addirittura candidato alle presidenziali a 82 anni nel settembre prossimo. Certo, c'è da fare delle riflessioni che valgono sia per l'Egitto, per la Tunisia, ma per altri anche paesi di quest'area. Se noi guardiamo le cifre di crescita economica che si aggirano intorno al 4, al 5, al 6%, dovremmo avere, come dire, un outlook positivo, come si dice in gergo. Certo. In realtà poi purtroppo la crescita del prodotto interno lordo non corrisponde a una distribuzione equa e certo, una redistribuzione di questa ricchezza. Una redistribuzione della ricchezza, come spesso avviene nelle non democrazie, nei paesi fortemente ineguali. Grazie a Alberto Negri, che risentiremo nel corso del GR di Radio 24 in collegamento con noi dal Cairo. Allora il GR, e poi ce la facciamo la nuova alleanza delle cooperative italiane e l'acciaio. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, come avevamo annunciato, stiamo rispettando la scaletta, continua il nostro viaggio nei settori produttivi, come stanno affrontando la sfida, come affrontano, hanno superato la crisi e la concorrenza che arriva dai paesi emergenti. E E allora, come dicevamo, continua il nostro viaggio nei vari settori produttivi, negli imprenditori che accettano la sfida, nella concorrenza, oltre che sfide e opportunità con i mercati emergenti, Cina, ma non solo. Oggi è la volta dell'acciaio, domani vi anticipo ci occuperemo anche del settore delle piastrelle, quindi distretti italiani. Il distretto dell'acciaio si chiama soprattutto Brescia, non è l'unico distretto dell'acciaio, ci mancherebbe, c'è Taranto, c'è Genova, ma insomma è Brescia la capitale, è diventata Brescia la capitale dell'acciaio italiano, soprattutto per la piccola e media impresa, ed è a Brescia che si terrà come ogni anno l'edizione 2011 dal 23 al 25 marzo per la precisione di Made in Steel, e quindi tutta la filiera dell'acciaio, non solo la parte finale o la parte iniziale, tutti quelli che operano dentro la filiera, organizzato con BRICS Expo Fiera di Brescia e con siderweb.com. Presidente Giuseppe Pasini, presidente di Federacciai, che vuol dire 150 imprese del settore siderurgico italiano, praticamente il 95% della produzione nazionale è raggruppata dentro Federacciai, 65.000 addetti. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Allora, l'Italia, lo ricordo sempre quando parliamo di acciaio, è il secondo produttore in Europa. Produciamo circa 20 milioni di tonnellate di acciaio, il primo è la Germania. Prima di tutto l'elemento congiunturale: avete avuto un 2009 terribile, meno 35% la produzione, con le tonnellate scese sotto i 20 milioni a 19 milioni e 700 mila, mentre la produzione mondiale ha fatto un meno 8% nel 2009 e quella europea ha fatto un meno 30%, per cui l'Italia purtroppo nel 2009 è andata, quanto a produzione d'acciaio, peggio sia della media europea e molto peggio rispetto alla media del resto del mondo. Il 2010 come si è chiuso? No, il 2010 abbiamo recuperato alcune posizioni, abbiamo aumentato la produzione del 30% a fronte della media europea che è del 25%, per cui abbiamo sicuramente recuperato, anche se la parte del leone la fanno sempre la Cina con un più 9.3% e i paesi BRIC. Nel mondo comunque c'è stato un aumento della produzione di acciaio del 15%, siamo arrivati ormai a 1 miliardo 400 milioni di tonnellate. 1 miliardo e 400 milioni di tonnellate di acciaio prodotto ogni anno. Se la produzione mondiale ha fatto un più 15 e voi avete fatto un più 30, non ci vuole un genio per capire che siete andati meglio della media del mercato. Avete recuperato quasi tutto o siete ancora sotto rispetto ai livelli del 2008, visto che fare meno 35 nel 2009 e più 30 nel 2010 non significa chiaramente tornare ai livelli del 2008? Siamo sotto di 5 milioni di tonnellate, praticamente del 15% rispetto al 2008. Ecco, contate, insomma, è difficile dirlo a gennaio, ma insomma avete indicazioni sul 2011 di comunque di un incremento che dovrebbe permettere di tornare alla produzione del 2008? Sì, pensiamo che forse nella prima parte dell'anno no, riteniamo che l'andamento sarà come il 2010, però nella seconda parte dell'anno, seconda parte del 2011, pensiamo di recuperare qualcosa, in particolar modo quelle aziende che producono acciaio destinate all'edilizia, con la speranza che si muova qualcosa nelle opere pubbliche, che ormai è due anni che purtroppo, indipendentemente dalle dichiarazioni del governo, da questo punto di vista poco o niente si sta facendo. Quindi ogni tanto anche noi dimentichiamo che le opere infrastrutturali non riguardano solo il settore delle costruzioni, lance quindi, ma anche il settore dell'acciaio, perché tutto l'indotto significa anche acciaio e non solo appunto mattone e calcestruzzo in senso stretto. Andiamo avanti, vorrei capire sulla concorrenza, visto che lei oltre che fare presidente di Federacciai ha anche la sua impresa e quindi ci vuole parlare anche come imprenditore. La concorrenza arriva da dove? Sappiamo che la Cina prima della crisi, prima del 2008, aveva creato forti tensioni sui prezzi, praticamente aveva rastrellato anche a livello europeo i metalli non ferrosi e quindi aveva portato i prezzi alla produzione per voi a livelli record. Continua a essere la Cina l'idrovora dell'acciaio mondiale e continua a essere la Cina il vostro concorrente più temibile? Diciamo che se io guardo le importazioni in Europa, La parte del leone l'ha fatta l'Ucraina e la Cina, che hanno aumentato notevolmente le esportazioni verso il nostro continente, e anche l'Italia purtroppo da questo punto di vista ne è stata danneggiata. Tanto è vero che tra export e import la bilancia commerciale italiana nell'acciaio è negativa, e questo vuol dire che praticamente sono riprese le esportazioni da Cina e dall'Ucraina. Per quanto riguarda le materie prime, in effetti i pericoli maggiori arrivano proprio dalle valutazioni delle materie prime, delle famose commodity. Tanto è vero che se guardiamo carbone, coke e minerale ferroso, proprio in queste settimane hanno raggiunto il valore massimo, o no, che era dal 2008 che non raggiungevano, a dimostrazione che le dinamiche delle materie prime non si fanno più né in Italia né in Europa, ma si fanno fuori nei paesi asiatici, si fanno in Brasile, cioè dove reggono i consumi. Per cui oggi per un'impresa diventa veramente molto difficile lavorare in una situazione in cui purtroppo le materie prime hanno delle evoluzioni così rapide da mini cicli. Allora, quindi Cina ma anche Ucraina, lei si ricorda quant'è la differenza tra quanto abbiamo esportato e importato? Cioè la bilancia commerciale, le dicevo, il saldo è negativo, ma per quanto? In valori assoluti non me lo ricordo, ma posso solo dire che abbiamo importato il 35% in più rispetto al 2009, 2010-2009 più 35% in importazione, ed abbiamo esportato solo il 5% in più, a dimostrazione che i dati, come dicevo prima, sono negativi. Ecco, un'ultima domanda, perché vedo anche dei messaggi al 349-238-6666. Nel caso vostro la concorrenza cinese è una concorrenza corretta? Cioè, voglio dire, qui bisogna anche uscire dalla logica, lo continuiamo a dire, che la Cina faccia solo concorrenza scorretta. Lo ha fatto, sicuramente in alcuni settori ha operato in dumping negli anni passati, cioè tessile, calzaturiero, abbigliamento, cioè sotto i livelli di costo, ma la concorrenza che voi avete è una concorrenza, diciamo, corretta, normale? Ma Dio, non direi proprio. Se lei guarda le azioni di antidumping che l'Europa ha mosso sulla Cina, sono molto di più di quelle che negli ultimi 10 anni si sono mosse su altri paesi. In più, essendo l'Italia nell'Europa, abbiamo firmato il protocollo di Kyoto sulle emissioni CO2, il famoso 20-20-20, e dobbiamo assolutamente sottostare a questo protocollo. Attenzione che la Cina, non firmando il protocollo di Kyoto, non ha gli stessi vincoli ambientali. Beh, in bocca al lupo a lei e a tutti gli associati, quindi le 150 imprese e i 65.000 addetti soprattutto del settore siderurgico. Grazie al presidente Federacciaio Giuseppe Pasini. Grazie a voi. Eh sì, vedo anche gli sms al 349-238-6666. La Cina non ha aderito a Kyoto, così come l'America non ha aderito, quindi ha minori vincoli rispetto alle imprese europee anche nell'acciaio sulle emissioni di CO2. Dopo il traffico invece ci occupiamo di un altro tentativo, questa volta l'oggetto è la Lega delle Cooperative, non solo le Confcooperative, anche l'AGC, che si sono unite in una super Lega delle Cooperative che mette assieme le cooperative cosiddette rosse con quelle cosiddette bianche. Fare rete, le dimensioni, vale tanto questo accordo, vale 140 miliardi di euro, ne parliamo dopo il traffico. Focus Economia. Allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'alleanza delle cooperative italiane. Non è una fusione societaria, ci mancherebbe, ma insomma i tre presidenti di Confcooperative, Lega Coop e AGC, rispettivamente Luigi Marino, Giuliano Poletti e Rosario Altieri, hanno firmato questa mattina un'intesa già annunciata, ma insomma oggi c'è la firma, ossia un super coordinamento delle cooperative italiane che riunisce 43.000 imprese associate nelle cooperative, oltre 12 milioni di soci, 1.100.000 occupati e 130 miliardi, non 140, di euro come fatturato complessivo. Siamo in collegamento con uno dei tre soggetti, ossia il presidente di Lega Coop, Giuliano Poletti, buonasera. Buonasera. Allora, intanto l'obiettivo di questa Supercoop, poi altre domande che ho per lei. Cioè, Lega Coop sono 14.500 cooperative e 500.000 dipendenti, Confcooperative sono 20.000 cooperative e anche lì 500.000 dipendenti. AGCI sono 7.000 cooperative e 21.000 dipendenti. Sì, l'obiettivo naturalmente, essendo noi delle organizzazioni di rappresentanza e quindi dovendo svolgere come missione quella di rappresentare al meglio le nostre cooperative associate, la prima funzione, il primo obiettivo è quello di rappresentarle meglio. Naturalmente rappresentarle meglio significa dialogo con le istituzioni, con la politica, significa lavorare ad avere una buona regolazione, significa anche costruire un rapporto migliore all'interno dei nostri mondi, quindi collaborazioni anche di tipo imprenditoriale, quindi le cooperative che collaborano tra di loro, costituendo consorzi, costituendo filiere, migliorando in buona sostanza le loro performance. Ecco, il coordinamento è solo per il settore alimentare, che comunque rappresenta un quarto del vostro fatturato? No, il coordinamento è per tutte le nostre associazioni, per tutte le nostre attività, perché è stato sottoscritto da LegaCoop, AGC e Conf Cooperative, che sono, diciamo, le organizzazioni ombrello, madre, che rappresentano tutti i settori. Perfetto. E quindi voi vi presenterete d'ora in avanti con un unico soggetto, un unico rappresentante, ho ben capito? Esattamente, avremo un portavoce unico. Le tre associazioni rimangono in vita e mantengono i loro organi, ma i tre presidenti si coordineranno tra di loro, definiranno le posizioni di questa che abbiamo denominato Alleanza delle Cooperative Italiane, e a partire da questo tipo di posizioni poi avremo un portavoce unico che si rapporterà con le organizzazioni. Cioè volete fare massa critica ancora di più, mettetevi assieme, non c'è nulla, anzi l'abbiamo visto. Certamente vogliamo fare massa critica, ma vogliamo fare con molti e diversi obiettivi. Prima di tutto, ad esempio, noi vogliamo affermare sul piano prima di tutto culturale l'idea che avere una pluralità di forme di imprese è un bene per il mercato e per la società, e quindi che competano tra loro imprese che hanno finalità di fare profitti o finalità mutualistiche come le cooperative o imprese pubbliche o imprese non profit, è un bene per il mercato, perché nel mercato queste diverse imprese con loro particolari caratteristiche potranno dimostrare se sono più efficaci, più efficienti, se rispondono meglio ai bisogni delle persone. Quindi ecco, su questo abbiamo un'idea anche sul piano culturale da affermare. Su questo lei sa che i critici vostri dicono, vabbè, a parte il fatto che è stata battezzata questa alleanza, l'alleanza del cattocomunismo, che però non è necessariamente un'offesa, nel senso, lo spirito della dottrina sociale della Chiesa che si unisce al riformismo e all'atto cooperativistico del vecchio PC, no? C'è chi ha scritto anche questo, ma vorrei capire una cosa, voi volete portare avanti anche un modello, diciamo, di impresa culturale, appunto, che non è quello dell'impresa singola col proprietario, quella classica, ma è delle cooperative che si associano. La critica che più spesso vi viene fatta, Poletti, è quella che riguarda i vantaggi fiscali. Nella prima parte del programma raccontavamo che nella bozza nuova di federalismo fiscale resteranno le esenzioni per l'ICI, la IMU, anche per la chiesa, per gli ospedali, gli alberghi, e gli alloggi della Chiesa Cattolica. Insomma, una critica simile può essere fatta a voi. Voi praticamente non pagate utili su quella quota di riserve indivisibili che dovete accantonare per statuto, praticamente accantonate una grossa fetta. Ecco, insomma, da più parti si dice va bene la concorrenza, ma che sia concorrenza uguale per tutti. Vale questo ragionamento fino a quando le regole sono uguali per tutti. Ad esempio, le cooperative non possono adire al mercato dei capitali come le altre imprese, e quindi non sono uguali. Da questo punto di vista, le cooperative hanno l'obbligo di mettere a riserva indivisibile il 30% degli utili prodotti, e quel 30%, e poi di fatto le cooperative mettono l'80% a riserva indivisibile, quella riserva è mai più divisibile da nessuno. Quindi i soci delle cooperative, che potrebbero tra virgolette distribuirsi quegli utili, non lo fanno, e non lo fanno né subito né mai. E questo diventa patrimonio di una cooperativa che rimane a disposizione dei cittadini che domani c'entreranno, perché quelli di oggi magari tra un anno vanno in pensione, ma quando vanno in pensione non si portano a casa, tra virgolette, il capital gain, l'aumento di valore dell'impresa che in 30 anni hanno contribuito a produrre, si portano a casa esattamente il capitale che ci hanno messo. Se ci hanno messo 100 euro, se ne portano a casa 100. L'aumento di valore di quell'impresa rimane lì, rimane, tra virgolette, dei soci che verranno dopo, che quando entrano non è che pagano, tra virgolette, un sovrapprezzo, pagano la stessa quota di quello che esce, cioè i 100 euro. È il modo per far fare impresa a persone che non ne avrebbero avuto i mezzi in natura e che invece attraverso questo meccanismo diventano imprenditori per un periodo di tempo, fino a quando sono soci di quella cooperativa, e la cooperativa non si smonta quando escono i soci perché ne arrivano degli altri. È un modello di impresa diverso e il trattamento fiscale è coerente con quel tipo di modello. Per il resto, cioè per tutte le altre, gli altri trattamenti fiscali, le cooperative pagano esattamente come tutti gli altri. Se distribuiscono degli utili, pagano le stesse identiche tasse di qualsiasi altra impresa. Ci mancherebbe. No, però Poletti, mi faccia capire una cosa, perché voi dite, noi abbiamo un modello diverso, è un modello in cui, ricordo un po' come le banche popolari hanno il voto capitario e le quote, vabbè, avete il modello cooperativistico per cui non possiamo, noi non possiamo raccogliere capitali sul mercato come fanno altri privati, però e questi utili non vengono distribuiti, uno entra con 100 e esce con 100. Le dico una cosa però, il fatto che questi utili vengano accantonati permettono di patrimonializzare l'impresa, cioè sono sempre un vantaggio. Allora, voi non ci pagate un euro di tassa su questo? Ma se un cittadino mette il capitale nella sua azienda, paga le tasse? No, ho capito, ma voglio dire... Ho capito anch'io. Cioè, un cittadino che decida di mettere gli utili, che sarebbero i suoi, e non si ridistribuisce, non ci paga le tasse. Un cittadino che ha un euro suo e lo decide di mettere come capitale in un'impresa, non ci paga le tasse. Quindi, da questo punto di vista, lo dice la Commissione Europea, quindi mi faccio assistere da qualcuno che è al di sopra di ogni sospetto, anche questo tipo di tema è un tema che va affrontato, e cioè il tema è il trattamento fiscale, è un trattamento fiscale specifico riferito a una tipologia di impresa specifica, che ha delle regole speciali, ha degli obblighi speciali che gli altri non hanno, ha dei limiti e dei vincoli che la, come posso dire, mettono da un certo punto di vista in una condizione particolare nel rapporto con il mercato. Ho capito la vostra posizione, però insomma resta così una mia perplessità su questi utili non tassati, seppure vengono accantonati come riserve non distribuiti dagli azionisti. Abbiamo 10 secondi. Sosteniamo abbondantemente la tesi che se anche gli altri imprenditori vogliono fare la stessa cosa, sarebbe un'ottima cosa mettere i soldi in azienda, venissero trattati nella stessa identica maniera. Cioè, non far pagare tasse a chi mette i soldi in azienda, anche noi lo sosteniamo. Mi dice in 10 secondi se quello che scrive un ascoltatore, che da cooperative diventate corporative con questa alleanza, è vero, sì o no? Assolutamente no. Vabbè. La cooperazione è sempre cooperazione e la corporazione è sempre corporazione. La corporazione da questo punto di vista credo proprio che non abbia molta ragione di essere considerata. Va bene, grazie, in bocca al lupo per questa alleanza storica che unisce le cooperative bianche e rosse, 130 miliardi complessivamente di fatturato, 1.100.000 dipendenti. Grazie al presidente della Lega Coop, grazie Giuliano a voi. Poletti. Hanno tutti ragione, come il libro di Paolo Sorrentino, caro Giuseppe Cruciani. Beh, colpo grosso hai fatto, con quei Poletti, Lega Cooperative, insomma, personaggi importanti, potenti. I potenti di turno, giusto così. Ma i potenti, noi parliamo dei potenti e abbiamo ogni tanto anche dei potenti, insomma, dei politici, come al solito. Ci occuperemo di quello che oggi pubblica il giornale con il direttore del giornale Sallusti, un attacco a Ilda Boccassini e poi, naturalmente, della varia umanità che popola Parlamento italiano e Parlamento europeo. A tra poco la Zanzara, da Sebastiano Barisone invece è veramente tutto, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.